Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Arcese, da un camion per la cartiera di Riva del Garda ai trasporti in tutto il mondo, di Andrea Ferro. Questa è una storia di impresa ispirata da una storia d'amore. È una trama che ha il sapore tipico dell'Italia, quasi un romanzo scritto sulla forza dei sentimenti e dell'intraprendenza. Ingredienti vitali che dal nulla hanno fatto lievitare un colosso della logistica, il gruppo Arcese, tra le aziende leader del settore non solo a livello nazionale. Matteo Arcese è il figlio di Eleuterio, il fondatore. Da lui ha raccolto l'esempio e il testimone per continuare a correre insieme a tutta la famiglia. Sono l'attuale amministratore delegato dell'azienda e rappresento la seconda generazione. L'azienda nasce 50 anni fa sulle sponde del lago di Garda, nello specifico a Riva del Garda, dove si trova questa cartiera, una delle più importanti cartiere nazionali, che si chiama Cartiere Garda. Era una cartiera all'epoca privata di un importante imprenditore italiano che era il commendator Legrenzi. Presso questa cartiera lavorava mia madre all'ufficio spedizioni e mio padre, che invece era autista, camionista, presso un'azienda di autotrasporto del sud Italia, che era stata chiamata al nord a lavorare per eseguire trasporti per questa cartiera. Da lì nasce la conoscenza tra mio padre e mia madre. Mio padre, uomo del sud, di Frosinone, di Arce nello specifico, uomo molto sanguigno, molto imprenditore. Dall'altra parte e mia madre, che tra l'altro di cognome Farigel, quindi ancora di una generazione che era ancora influenzata dall'influenza austro-ungarica, si cominciano a frequentare e decidono di sposarsi. In una storia così italiana, che trae dalla varietà dei caratteri la sua ricchezza, è l'incrocio delle coincidenze a orientare la direzione e la prospettiva di una famiglia e così di un'azienda. Perché quando tutto sembra improvvisamente in bilico, c'è un lampo di genio, c'è uno slancio di volontà a trasformare l'incertezza in un'avventura da affrontare con passione. A un certo punto l'azienda per cui mio padre lavorava lo richiama a lavorare in un'altra cartiera del sud Italia. Da lì il panico di mia madre, donna trentina molto attaccata al suo territorio, che non ci pensava nemmeno di prendere e di trasferirsi. All'epoca avevano già avuto il primo figlio, mio fratello. L'allora proprietario di cartiera, che aveva sviluppato un rapporto personale confidenziale con mio padre e mia madre, decide di aiutare questa giovane coppia e quindi gli compra a mio padre il primo camion, trattenendosi il pagamento del camion dalle fatture di trasporto. E da lì nasce fondamentalmente l'azienda. Sono gli anni 60. Lo sviluppo del paese è carburato dal boom economico. Crescono i consumi. Per l'editoria è una stagione florida. Si stampano sempre più giornali, libri, riviste. Si produce e si sogna. La cartiera non si ferma mai e così i camion di Eleuterio Arcese e della sua azienda, nata quasi per caso. Il figlio Matteo, oggi amministratore delegato del gruppo, prosegue il racconto della sua famiglia, della sua impresa. Lo sviluppo nasce nel mondo del trasporto stradale in una prima fase. Parliamo di un periodo storico in cui ovviamente lo sviluppo, la crescita delle imprese era ben altro rispetto a quello dei giorni nostri. La cartiera, nella sua fase di espansione nazionale, dà la possibilità all'azienda Arcese di crescere nella distribuzione del proprio prodotto nel territorio nazionale, fino a che a un certo punto c'è un passaggio sicuramente molto importante per l'azienda, che è quello della vendita da parte del commendatore Legrenzi della cartiera a un gruppo tedesco, che è il gruppo Bertelsmann. Da lì l'inizio di Arcese, è un'attività internazionale di trasporto dall'Italia alla Germania, quindi da Riva del Garda, dove tuttora esiste lo stabilimento produttivo, alla sede centrale di Bertelsmann che si trovava a Düsseldorf. Parliamo di epoche in cui andare da Riva del Garda alla Germania era come oggi andare dall'Italia al punto più remoto del Vietnam. Con il passare degli anni, Eleuterio Arcese non segue le tendenze delle altre aziende di autotrasporto e imposta il lavoro su una scelta diversa. La differenza sta nel fattore umano, che diventa garanzia di qualità. Rispetto a molte imprese concorrenti, i trasporti non vengono affidati ai cosiddetti padroncini, cioè a tante piccole aziende, ma sono svolti direttamente con mezzi propri e personale dipendente. Una formula destinata a rivelarsi vincente, a marchiare l'azienda proiettandola su ambiti sempre più vasti. Caratteristica invece dell'azienda Arcese e della politica, diciamo, di sviluppo di mio padre era proprio quella di puntare a un livello di servizio alto e per lui era importante, fondamentale per poter dare questo tipo di servizio, poter avere il controllo degli asset produttivi, quindi dei mezzi. L'azienda si sviluppa e diventa una delle flotte più importanti, prima in Italia e poi in Europa, proprio per questo motivo, proprio perché c'è una politica dell'imprenditore di avere e di contare su una flotta di proprietà e quindi su un livello di servizio di fascia alta. Dai camion agli aerei, dalla gestione dei magazzini ai trasporti via mare. Partendo con quel primo camion che serviva la cartiera di Riva del Garda del commendator Lecrenzi, l'azienda macina chilometri e allarga ancora gli orizzonti. Matteo Arcese cadenza i passaggi decisivi che conducono l'impresa di famiglia verso traguardi sempre più ambiziosi in un mondo senza più confini. Clienti che sono principalmente rappresentati da grandi aziende, danno appunto la possibilità ad Arcese, grazie al rapporto fiduciario che si instaura negli anni, di aprirsi a nuove attività, come la logistica, quindi la gestione dei magazzini per primari marchi di vari settori, dall'automotive alla chimica, al cartario. Poi c'è un altro passaggio molto importante per la storia del gruppo, che è quello dell'acquisizione di Ventana, negli anni 90, Fiat, per la quale Arcese era già un importante fornitore sulla parte di trasporto terrestre, decide di voler cedere la propria azienda interna di gestione dei trasporti e delle spedizioni. Da lì viene individuato Arcese come partner fiduciario a cui cedere questa attività strategica per il gruppo, e questo dà poi la possibilità ad Arcese di entrare in modo importante nella logistica inbound nel settore automobilistico e tutta l'attività di trasporto intercontinentale, quindi aereo e mare. Oggi il gruppo Arcese opera in 50 paesi con 70 basi di riferimento. Nel 2015 il fatturato ha toccato quota 592 milioni di euro. Ancora qualche numero. Per fornire servizi logistici alle piccole e medie imprese come alle multinazionali, il gruppo ha 2.500 dipendenti diretti, 350.000 metri quadrati di magazzino, e per i trasporti terrestri può contare su una flotta di 2.250 semirimorchi e 750 motrici. Un colosso in continuo movimento, all'interno di un settore, quello della logistica, che tutti i giorni rinnova le sfide dentro un mondo sempre più globalizzato. A caratterizzarlo sono i grandi gruppi internazionali e le opportunità indotte dalla tecnologia, a partire dal tumultuoso e irrefrenabile sviluppo dell'e-commerce, che ha riparametrato esigenze e obiettivi della logistica. Questa nuova era digitale che ha nell'e-commerce, nel commercio elettronico, diciamo il passaggio più importante, ha aperto il mercato globale ancora di più rispetto al passato, e quindi ormai le merci si muovono da una parte all'altra del mondo. Diciamo che noi, se siamo fieri di essere un'importante azienda italiana, rispetto al panorama, diciamo alla dimensione media degli operatori stranieri, siamo nella fascia centrale, nel senso che esistono i grandi operatori stranieri, che tra l'altro sono, diciamo, in buona parte operatori che hanno in qualche modo un interesse pubblico, e in particolare mi riferisco agli operatori tedeschi, del mercato tedesco. Noi come azienda ovviamente cerchiamo di eccellere in quella parte di filiera che copriamo, ponendoci con su un livello di servizio di fascia alta e anche, diciamo, con una dimensione aziendale, con una scalabilità e una flessibilità che questi grossi gruppi faticano ad avere. E vale la regola che il cliente comunque, anche se è una grande azienda, vuole e sentirsi sempre al centro dell'attenzione del proprio fornitore. Ovviamente per noi ogni cliente rappresenta uno dei, da sempre, diciamo dalla cultura che ci ha sin dall'inizio inculcato mio padre, è al centro dell'attenzione dell'azienda. Per aziende molto più grandi che ragionano su numeri molto molto più grandi, ovviamente non c'è questa capacità di essere così vicini alle esigenze del cliente che possono avere gruppi come i nostri. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.